Il secondo lucchetto è protetto da un enigma logico. Il codice si basa infatti su proposizioni e connettivi logici. Vi spiego come funziona. L'operatore AND restituisce vero, solo se entrambe le condizioni sono vere. È come dire, puoi passare solo se hai la chiave e la porta è sbloccata. Se manca anche solo una delle due cose, non puoi andare avanti. Ora immaginate, la condizione A è vera. La torcia magica è accesa. La condizione B è falsa. Il passaggio segreto è già aperto. In questo caso, qual è il valore di A and B?